Letture di Radio 24. Milioni di italiani cercano informazioni sanitarie su internet. Fra questi potrebbe esserci un bel numero di malati immaginari. L'ipocondria non è un peccato, però può risultare costosa. Sono numerosi, infatti, gli esami e le visite mediche fatte inutilmente. Italiani? Un popolo di ipocondriaci. Malati immaginari che cercano su internet la causa dei loro doloretti, che affollano le anticamere dei medici di base, in fila le farmacie cariche di prescrizioni, sempre pronti a trasformare una febbriciattola nell'annuncio della fine. E che per questo costano allo Stato 4 miliardi all'anno, come spiega il senatore Antonio Gentile, PDL, della Commissione Finanze di Palazzo Madama. La metà di questi soldi vengono spesi per risonanze magnetiche, TAC, esami di ECG inutili, mentre l'altra metà viene spesa in visite specialistiche convenzionate. E tra le patologie più temute ci sono i tumori, le malattie cardiovascolari, le malattie mentali e neurodegenerative. Un problema che causa certamente sofferenza e che annovera tra le sue vittime anche molti nomi noti, a iniziare da Carlo Verdone, che proprio in uno dei suoi film più famosi, Maledetto il giorno che ti ho incontrato, porta sullo schermo una coppia di ipocondriaci, lui e Margherita Bui, destinati a innamorarsi. E la battuta «Copro tutto fino al delirio schizzoide» è ormai diventata un cult tra gli ipocondriaci confessi. E da Wikileaks abbiamo saputo che anche Gheddafi è della partita e che si porta in giro sempre un'infermiera, oltre a filmare tutti i suoi controlli medici. Ma il problema non è solo italiano, visto che negli Stati Uniti l'ipocondria affligge un americano su 20 e costa 150 miliardi di dollari all'economia. E qualche giorno fa i ricercatori dell'Università di Stanford hanno pubblicato l'esempio delle allucinazioni. Su un campione di 13.057 persone, scelto tra Regno Unito, Germania e Italia, rappresentativo di 150 milioni di europei, ben il 16,3% aveva allucinazioni occasionali. Eppure, scrivono i ricercatori, ancora oggi molti si attardano a fare diagnosi sulla base solo di questo sintomo, che può essere patognomonico, indica cioè la certezza della malattia, ma può anche non significare nulla, specialmente nelle età di transizione. E nell'era di internet, essere ipocondriaci è sicuramente più facile, visti gli strumenti a disposizione, come l'applicazione per iPhone, che regala diagnosi in base ai sintomi che si digitano. Una ricerca ci dice che oltre 16 milioni di italiani cercano informazioni sanitarie su internet e molti di loro, e sempre di più, lo fanno in modo compulsivo, convincendosi alla fine di essere malatissimi. Ma guai a definire qualcuno ipocondriaco, tanto che Verdone ha spiegato in un'intervista di non sentirsi affatto tale, quanto piuttosto un cultore della materia. Io studio la sera, leggo libri, mi documento su internet, ascolto specialisti. Tanto, dice, d'avere salvato la vita ad almeno 5 persone mandate dal medico a calci nel sedere. Non per vantarmi, ma sarei stato un grande medico di famiglia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Malati immaginari, le paure costano 4 miliardi, di Maria Corbi, pubblicato dalla Stampa di domenica 23 gennaio. Letture di Radio 24. Scrivanie in affitto. È un fenomeno nato negli Stati Uniti, precisamente a San Francisco, e diffusosi recentemente anche in Italia. Se la vostra professione vi costringe a stare sempre con la valigia in mano, potreste cercare un ufficio in affitto per il tempo necessario. Si chiama co-working. Bianca ha poco più di 40 anni. Un negozio di parrucchiere nel centro di Roma e, a causa della crisi e della concorrenza cinese a basso costo, non riesce più a sostenere le spese. Però ha avuto un'idea. Affittare una poltrona del salone ad un collega. Per il nuovo arrivato ci sarà una sedia sempre disponibile, una lista di clienti e di appuntamenti individuale. Anna, da un blog di Berlino, racconta che con 75 euro al mese la sua vita è cambiata. Ora ha a disposizione una postazione lavorativa, un collegamento internet ed è in contatto con professionisti che fanno lavori diversi dal suo. Ecco le ultime frontiere del co-working, di quella condivisione del lavoro inteso non come professione, ma come spazio. C'è chi affitta una poltrona in un laboratorio dentistico, chi una stanza in uno studio medico, un lettino in un centro benessere e chi ancora una linea wireless. Contratti a volte brevi, un giorno, a volte più lunghi, un mese, mai più di un anno, perché la nuova società è liquida, veloce, incerta. Oggi sì, domani forse. Nel mondo le comunità sono circa 270, ma aumentano velocemente. In Italia la più famosa è Coworking Project, un autentico paradiso del lavoro nomade. Circa 51 uffici in condivisione dal nord al sud, sparsi tra 26 città. I costi? In America, dove il fenomeno ha avuto inizio a San Francisco, ogni giorno si può spendere da 10 a 100 dollari. Per un mese, invece, si parte da 150 e si arriva sino a 700. In Italia è variabile a seconda delle città. A Milano, dove affittare una scrivania è piuttosto diffuso, ci vogliono circa 200 euro. Se c'è anche il PC, 50 euro in più. Condividere spazi e spese non è una cosa da sfigati, anzi. Spesso lo pratica chi è sempre in viaggio e a Roma, come a Parigi o a New York, preferisce avere una postazione disponibile. L'identikit è quello di un professionista tra i 20 e i 50 anni, architetto, informatico, web designer, parrucchiere, medico, estetista, ma anche businessman con la valigia perennemente tra le mani. Più uomo che donna. Nel 2010 c'è stato un boom anche in Italia del fenomeno, racconta Massimo Carraro, che a Milano ha aperto Cowo nel 2008. È nato in maniera collaborativa tra programmatori di internet che, lavorando nei bar, per usare la connessione Wi-Fi, decisero di affittare uno spazio. E spesso gli affitti coinvolgono colleghi che fanno un altro mestiere. Prima porta a destra c'è il commercialista, prima a sinistra l'avvocato e in fondo al corridoio il web designer. Assieme alla scrivania va per la maggiore l'affitto della poltrona, quella del parrucchiere, ma anche del dentista. Per i primi, però, c'è un vuoto legislativo. C'è una proposta di legge che dovrebbe essere approvata a breve, spiega Fabio Messina, presidente di Air Lobbying. Ce lo auguriamo, visto che il mercato del lavoro è sempre più impegnativo. Nell'abitudine di condividere poltrone e scrivanie si combina infine anche un elemento psicologico, quello di creare una sorta di famiglia di ultima generazione, un piccolo nido che preservi dalla solitudine del lavoro autonomo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Scrivania affittasi, così il lavoro si fa condiviso, di Irene Maria Scalise, pubblicato da Repubblica di venerdì 21 gennaio. Allarme medici in Italia. Nei prossimi 7 anni, infatti, i medici che andranno in pensione saranno il doppio di quelli che verranno assunti. Sono troppo pochi i giovani dottori che escono dalle facoltà mediche. Di questo passo si rischia di avere fra qualche anno un'eccessiva mancanza di manodopera sanitaria. Nella sanità aziendalizzata la crisi si chiama manodopera. La carenza è già emergenza per chirurghi, ortopedici, ginecologi, pediatri, geriatri e radiologi. Il risultato della programmazione sbagliata e del numero chiuso difeso con una raffica di inaccettabili test mette l'Italia nella condizione di dover importare presto nuovi medici. Le opportunità negate ai tanti giovani scartati nelle prove di ammissione delle facoltà diventeranno occasione di lavoro per altri protagonisti del mercato globale, come già avviene negli Stati Uniti o in Gran Bretagna. Bisogna riflettere sui dati di un allarme che il Piano Sanitario Nazionale mette in evidenza. Da quest'anno fino al 2018, i medici che andranno in pensione saranno il doppio di quelli che verranno assunti, non solo per effetto dei tagli al personale ospedaliero, ma soprattutto perché i medici sfornati dalle facoltà universitarie non riescono a compensare i posti lasciati vacanti dai colleghi più anziani. A furia di stringere gli accessi per favorire l'assorbimento e la piena occupazione della pletora uscita dagli anni della liberalizzazione post-68, si è creata una strettoia con effetti preoccupanti per il sistema ospedaliero nazionale. Senza correttivi, che sono l'ingresso anticipato dei neolaureati nelle corsie ospedaliere e l'allargamento delle maglie di ingresso alle facoltà, nel 2018 mancheranno più di 20.000 camici bianchi nel nostro sistema sanitario. Con queste cifre finisce per sempre l'anomalia rinfacciata tante volte ai medici italiani. Sono troppi, si diceva. Adesso sono troppo pochi. E ne comincia una nuova, quella di un paese che vede sguarniti i ricambi in alcune delle specialità che hanno fatto la storia della sanità italiana. Qualcuno dovrà presto ridefinire i contorni del mestiere di medico, una professione che burocrazia, contenziosi e stipendi inadeguati per chi sceglie di lavorare a tempo pieno in un ospedale stanno rendendo meno appetibile di un tempo. Le cifre snocciolate dal piano sanitario sono un avvertimento da non sottovalutare. Fare il medico una volta era considerato il più bel mestiere del mondo. È ancora così? Avete ascoltato la lettura dell'articolo La strettoia del numero chiuso e l'emorragia dei nuovi medici di Gian Giacomo Schiavi, pubblicato dal Corriere della Sera di sabato 22 gennaio.